Hadith numero 27 da An-Nawas bin Sam'an, che Allah si compiaccia di lui, che l'ha udito dal profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: l'onestà è buon comportamento, mentre la disonestà è ciò che trama nella tua anima e ti dà fastidio che la gente lo venga a sapere. L'ha riferito l'Imam Muslim.